fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Prepariamoci, da qui a pochi giorni, nei quotidiani, nei rotocalchi televisivi, ma probabilmente anche alla radio, anzi qualcuno già sta preparando lo registrato, pronto ad essere trasmesso nella notte di Capodanno, faremo l'elenco dei miti che hanno attraversato quest'anno, dei momenti indimenticabili, delle persone, degli eventi, dei fatti, ci sarà tutto, dalle veline alle escort ai trans, al terremoto in Abruzzo, alle morti illustri, alle gloriose assunzioni nella gloria dei cieli. E noi potremmo riflettere che in realtà ogni anno diamo effimera gloria a miti transeunti, a qualcosa che vale la pena di ricordare soltanto in un giorno di chiusura. È come se si facesse un bilancio e guardiamo e scorriamo i registri del periodo passato, una porzione di tempo, una porzione artificiale, un tempo parcellizzato dal nostro calendario, dalle nostre consuetudini, la nostra suddivisione dell'universo in tante piccole caselle che permettono alla nostra limitata natura umana di ponderare il mistero che altrimenti ci renderebbe e ci annichilerebbe totalmente. Beh, invece, al di là di queste modeste scansioni annuali, di questi rendiconto che si fanno periodicamente, esistono dei miti intramontabili. Esistono delle circostanze, dei modi di dire, delle persone, degli oggetti che in realtà sembrano essere inattaccabili dal logorio del tempo. Potremmo metterli ogni anno nelle categorie delle cose degne di essere ricordate. Questa mattina cercheremo, che probabilmente è molto difficile perché ne facciamo un uso quotidiano molte volte, ne siamo assorbiti, ne siamo contaminati, senza nemmeno rendercene conto, rendiamo gloria ogni istante del nostro quotidiano ad alcuni miti, miti assolutamente profani, ma miti condivisi. Cosa è che rende intramontabile la persona, l'oggetto, il modo di dire? Cosa è che rende sempre verde un'idea, un strumento di lavoro, un oggetto, un succedaneo di lussuria? Beh, questa mattina cercheremo su questo di interrogarci. Jeans. Vero e proprio mito della giovinezza, sicuramente è il capo di vestiario attualmente più universale e popolare, emblema di quella planetarizzazione della comunicazione resa possibile dalla moda. L'indumento che troveremmo nell'armadio immaginario di un aborigeno australiano, di una giata signora parigina o di un barbone di New York. Come una lingua comune, è passato dalle gambe muscolose dei cercatori d'oro del West a quelle dei militari americani della Seconda Guerra Mondiale nelle ore di riposo e da questi, attraverso i mercati dell'usato, ai corpi inquieti dei giovani degli anni tra i 50 e i 70, alle passerelle e alle griff degli anni 80, alla destrutturazione dei 90. Sono per eccellenza una seconda natura della nostra pelle, reale o immaginaria che sia. Questo è un primo indizio, un primo stimolo, i jeans. Oggi non viene dato un valore simbolico di appartenenza generazionale, i jeans si mettono comunque, li mettono le signore, li mettono con le borchie dorate, li mettono con gli strass, li mettono sotto gli abiti firmati, li mettono con scarpe meravigliose, li mettono con le ciabatte, li mettono con le pianelle, li mettono con qualunque tipo di accessorio. Oggi il jeans non certifica più un'appartenenza. Pensate che al Museo Centrale del Risorgimento, dentro il Vittoriano, in vetrina ci sono i jeans di Garibaldi. Ricordo qualche anno fa ancora davano una certa sensazione, uno pensava: ma chissà, questo capo di abbigliamento che ancora nella memoria di chi parla appartenevano a un oggetto reietto di vestiario che veniva indicato al massimo di possibile uso nei momenti di relax, nei momenti informali, ma mai mettersi jeans per andare a scuola, ad esempio, al liceo, portare jeans veniva considerato disdicevole, ma perlomeno dai nostri genitori, dai nostri nonni. Li mettevamo perché probabilmente era ancora un richiamo, un corso eppur pallido negli anni 70 a quello che generazionalmente avevano rappresentato in tutta l'epopea degli anni 50. 50, delle gioventù bruciate. Poi noi ci ricordavano molto le fantastiche saghe della nostra fanciullezza. Il jeans era l'accessorio che noi indossavamo come perfetta antitesi al pelle rossa, che era il selvaggio, era colui che, sbagliando probabilmente, andando contro a un'idea politicamente corretta che oggi condividiamo tutti, permetteva il combattimento con il pelle rossa, che in realtà era sempre il nemico, ma non perché lo odiassimo, perché nessuno voleva mai mettersi le penne da indiano in testa, ma tutti ben volentieri indossavano i jeans che rappresentavano appunto lo strumento, il vestiario, quasi il paramento del giustiziere. Mina. Mina è un concentrato di passioni, narrazioni, trasformazioni. È mutazione sonora in tutti i sensi. Corpo, moda, musica, gender sono costruiti negli anni 60 e nei primi anni 70 nella figura di Mina in funzione della televisione, e allo stesso tempo è anche la televisione italiana a essersi costruita in funzione di Mina. Oggi evoca memorie di infanzia di sabato sera, in cui il permesso strappato di poter andare a letto anche oltre Carosello aveva in Studio 1 la sua apoteosi. Rievoca adolescenziali tentativi di depilare le sopracciglia, mai però osando quanto lei, e testi di canzoni che si immaginava contenessero il senso di passioni mature. Il mito di Mina, il mito creato, accresciuto, fortificato dalla sua parziale scomparsa dalle scene, o perlomeno dalla sua non ostentazione così invereconda come tante sue coeve contemporanee, terrificante senso di distruzione che il tempo opera sulle fattezze fisiche di una persona. Mina è riuscita a congelarsi in un'eterna età senza età, ne vediamo dei baluginini, ma le sue immagini ufficiali o non ufficiali, quelle che vengono rapite e via via sgraffignate, sappiamo perfettamente come oggi sia Mina, ma la sua icona più splendente si sovrappone a tutte le altre immagini. Quindi lei ha piena ragione, entra nell'universo degli intramontabili, un intramontabile molto connotata alla nostra circostanza geografica e anagrafica, però pur attraversando varie generazioni rimane comunque a pieno diritto tra sempreverdi. 800240024, cosa intendete voi per sempreverde, per intramontabile? Se fate un attimo mente locale, cosa per voi è veramente intramontabile? Guardate che a volte possono essere oggetti del tutto banali ai quali non diamo assolutamente questa certificazione di intramontabilità. I tacchi alti. Nella sua vita, conclusasi nel 2008 a 85 anni, Betty Page, una delle più affascinanti star dello spettacolo popolare detto burlesque, ebbe il tempo di assistere ad almeno due cicli di moda in cui fu protagonista un capo essenziale della sua tenuta da pin-up: le scarpe con il tacco altissimo. Come lei, milioni di donne nel mondo presero in quel periodo a oscillare temibilmente, seppur sensualmente, su trampoli di ogni sorta. La seconda ondata di scarpe vertiginose è stata quella dei primi anni del 2000, quando sembrava che non esistessero altri modelli di calzature se non quelle con i tacchi a spillo e le punte del piede acuminate. Nelle successive stagioni si sono anche irrobustiti senza però perdere la loro altezza, e al tacco si è aggiunta la zeppa, che rende più inquietante la somiglianza tra questo genere di scarpe e un'arma impropria. Sì, forse probabilmente nel caso dello stiletto, del tacco alto, della zeppa, della donna svettante su questa sorta di supporto, di protesi, che ha un occhio totalmente vergine da ogni condizionamento di costume, di lussure condivise, di sensi profondi, stratificati, che nascono da chissà quale fantasma che viene creato, partorito nel nostro subconscio, sembrerebbe qualcosa di ridicolo, perché parzialmente scomodo camminare con dei tacchi, però è affascinante, però è indubbio che una donna sui tacchi ha il suo appeal. È indubbio che oggi molte ragazzine non riescono a uscire di casa senza tacco, si sentono come impossibilitate a camminare, sentono come se a loro mancasse qualcosa. Sembra quasi che questa protesi lussuriosa al fascino femminile debba essere quasi incorporata, quasi che sia la parte mancante che la catena evolutiva del gusto dovrebbe quasi creare geneticamente legata alla donna. Questo farà inorridire, farà stridere di terrore e di indignazione quella fetta di ascoltatrici che hanno condiviso gli anni furiosi del rogo dei reggiseni e della segatura dei tacchi a spillo in quanto orpelli per compiacere la maschile lussuria, quindi lo strumento di dominazione sulla libertà della donna di esprimersi. Ma oggi tutte le donne mettono i tacchi, oggi le vetrine sono piene di tacchi femminili, oggi il tacco femminile è l'accessorio indispensabile, anzi è la consacrazione del personaggio televisivo. La peggior trippona, la peggior lardosa, la peggior vecchia rifatta che va in televisione, comunque guardate, sotto i pantaloni avrà dei tacchi di 20 centimetri. Senza tacchi non si va in televisione, quindi non si entra nella corte degli dèi. Beh, questa mattina abbiamo fatto intanto una prima sommaria rapida analisi di alcuni strumenti dell'intramontabilità. L'abbiamo in parte tratti da un libro uscito per Meltemi, Gli intramontabili, mode, persone, oggetti che resistono, che è stato scritto da Patrizia Calefato. Buongiorno Patrizia Calefato. Buongiorno, buongiorno. La professoressa Calefato è una semiologa e docente di analisi e socioantropologica del prodotto di moda all'Università di Bari. Noi abbiamo preso sia i jeans sia i tacchi alti tra gli oggetti che lei ha analizzato come oggetti intramontabili. È possibile cominciare a definire una sorta di stigma di alcuni oggetti, di alcune persone, di alcuni modi di essere per cui cominciano a pieno diritto a entrare nella categoria degli intramontabili? Ma intanto io credo che ci sia sempre qualcuno che attribuisce a oggetti, a persone, questo stigma, nel senso che si tratta, come lei stesso ha detto nei suoi bellissimi commenti dei miei testi, questioni un po' di appartenenze generazionali, no? E questo è un libro, una riflessione segnata anche da un tempo, segnata anche da un fare i conti con il tempo. Comincia a essere un tempo un po' dilatato, perché parliamo di un cinquantennio, di un mezzo secolo, anzi anche di più per i tacchi a spillo e per i jeans. Dilatato se lo guardiamo dal punto di vista di una vita che è molto piccola, però gli intramontabili non a caso fanno riferimento all'ultimo mezzo secolo, fondamentalmente alla seconda metà del Novecento. Certo, tacchi a spillo, jeans possono andare un po' oltre, fanno riferimento sicuramente a un universo dell'oggetto prodotto in serie, dell'oggetto prodotto come mito, del personaggio pubblico anche prodotto come mito attraverso la televisione. Il caso di Mina è emblematico, però allo stesso tempo lei giustamente diceva congelato, che non significa messo appunto in freezer e sopravvissuto nei tempi e nei secoli, ma congelato in un dato momento nel quale l'affettività, le passioni, i sensi anche diversi, anche contrastanti, che si sono depositati su quell'oggetto, su quella persona, hanno la possibilità di rinascere, di rivivere, però ponendosi a confronto con quello che poi è il presente. Voglio dire, il senso, per esempio, di cui noi carichiamo un intramontabile come i jeans, no? Come questo oggetto in maniera così contrastante. Che però sembrano depotenziati di quella che era la vera forza per cui noi pensiamo che fossero intramontabili, che è il senso di oltraggio ai costumi correnti. Oggi il jeans, figuriamoci, anzi è un accessorio quasi lussuoso, non si trova, jeans da poveraccio se ne trovano pochi, raramente, non ci fa più caso nessuno. In questo senso è un intramontabile che attraversa i tempi, cambiando il suo segno evidentemente, no? E in questo senso dicevo fai conti col presente, cioè non è congelato nel senso di appunto di rimanere sempre uguale a se stesso, ma passa attraverso i tempi e le generazioni. Le faccio una domanda, lei che è semiologa, come mai oggi il jeans più è aumentato di valore, più ha un valore di mercato corrente, più è griffato, più deve avere artificialmente dei segni di logorio, il jeans lacerato e il jeans che costa di più? Perché deve essere comprato artificialmente lacerato perché ancora conservi qualcosa nel suo DNA di quell'antico oggetto di controversia battaglia, pantalone da lotta di piazza o da guerriglia urbana? probabilmente perché appunto il senso è un po' come quei dandy, si racconta la storia che i dandy facessero indossare la propria giacca nuova a un servitore, a un giardiniere, a un maggiordomo, e poi la indossassero soltanto dopo, no? Che questa giacca aveva vissuto addosso a qualcun altro. Non so se fino a che punto questa sia una leggenda intorno alla figura del dandy o sia verità. Beh, probabilmente quello che si chiede a questi jeans, visto che abbiamo fatto questo esempio, è quello di vivere in qualche modo, ma di vivere non nell'universo della serialità, dell'essere tutti uguali, ma nell'universo della unicità. In questo senso, allora, qui l'intramontabile incontra, giustamente lei diceva la dimensione del lusso, no? La lussuosità. Ma molti oggetti vestiari oggi, guardi, io ultimamente ho comprato una camicia stonewashed, cioè quelle che già le compri sembrano vecchie di 3 anni, scarpe antichizzate, mi hanno detto, guarda, queste sono antichizzate. Erano scarpe, l'ho messo una volta, mi sono trovato i calzini neri, perché l'antichizzazione si vede che è in un bagno di qualche liquido totalmente contaminante. Ma questo volere artificialmente appiccicare una storia addosso a un oggetto è quasi un tentativo velleitario di farla diventare intramontabile. È un vorrei ma non posso. Per esempio, no, vabbè, lei ha comprato degli oggetti antichizzati, però ci sono degli oggetti antichi, c'è il vintage, no? Oggi c'è una moda, un exploit del vintage, negozi vintage, ricerca che si fa sugli oggetti di vestiario, ma anche sugli oggetti di arredamento, sul design, che appartengono al Novecento, può essere un Novecento più recente, quindi diciamo c'è anche il vintage, per dire, degli anni Ottanta, arriva forse, adesso arriverà tra poco quello degli anni Novanta. C'è un vintage più che si allunga più verso i primi decenni del Novecento, e comunque anche in questo fenomeno, anche in questa moda. Si tutti dimenticano come la passione del viola in realtà fosse una cosa molto frequente negli anni 70, fine anni 70 andava molto il viola. È dimenticato perché non c'è memoria, ma è così. Probabilmente il popolo viola è ispirato anche da questo, no? Il cosiddetto popolo viola è ispirato anche da questa memoria di un intramontabile che forse inconsapevolmente riemerge ogni tanto. Quindi il vintage, no? Il vintage, noi ci mettiamo addosso oggetti che sono appartenuti ad altri, che vivono una nuova vita, che magari noi accostiamo a un paio di scarpe o a una borsa dell'ultimo momento, e dunque vivono effettivamente una nuova vita, cioè non sono la stessa cosa, no? Come nella traduzione, in cui una lingua si trasferisce nell'altra, ma non è la stessa cosa, non è la Quindi stessa lingua. Quindi noi dobbiamo adesso lasciare per alcuni minuti la linea alle informazioni della borsa, però mi sembra di capire da quello che ci dice la nostra ospite che comunque esiste una, seppur inconsapevole ma disperata, maniera di appiccicare dei valori di autenticità e quindi di storia vissuta e quindi di tentativo di rendere immortale a un'infinità di oggetti. Vediamo se questa mattina riusciamo ad identificare qualcuno degli oggetti che vi circondano, che hanno intorno, che è in questo limbo di quasi intramontabilità, non ci riesce a entrare, forse ci entrerà, forse un domani lo vedremo nelle categorie degli oggetti mortali, ma ancora probabilmente non ha questa dignità. Melog 2.0. Eccola. Eccola. Eccola. Eccola. Eccola. Eccola. Piccola grande vettura. Era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità. I comandi sono un invito alla guida. Le due leve per l'avviamento, il cambio a 4 velocità e retromarcia come nella 600, e qua la leva del freno a mano. Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobile. La 500 indubbiamente entra nel novero degli intramontabili. Lo è al punto tale che io l'altra sera sono stato riaccompagnato a casa da un amico che aveva la nuova 500, che è stato uno dei gli esempi di brand più fortunato degli ultimi anni, rilanciare la 500, che è molto di più che un'autovettura, è un ricordo fondamentale. Era la prima macchina che uno poteva permettersi, era il primo luogo in cui si consumavano i primi disperati amori, le prime conoscenze. La 500 veniva portata dal carrozziere e con 20.000 lire si rendeva ribaltabile il sedile accanto. La 500 che quando non andava in moto bastava scendere e si spingeva a mano, bastava il solo guidatore per farla ripartire. La 500 che era piccola, che si riempiva da amici, la 500 che era la macchina di fuga, la 500 che era la prima autovettura della signora sposata, era la seconda automobile per eccellenza, la 500 che molti hanno usato come automobile delle vacanze, andare in vacanza in 500, massacranti vacanze in cui ci si arroventava ma c'era il tettuccio che si apriva. Ecco, caricata di tutto questo, la 500 merita di essere un oggetto di culto. Oggi viene riproposta, non è tanto quella che oggi assomiglia soltanto parzialmente all'antica 500, e averla ribattezzata con qualcosa fortemente caricato di emozione. E qualche commento da Facebook, molti scrivono che in realtà l'essere intramontabile ha una condizione necessaria, quella di essere estinto, bisogna prima estinguersi e poi rinascere, risorgere, ma probabilmente questo non vale per Mina, o vale per Mina perché in realtà Mina al secolo si è estinta, non c'è più, non è più presente. Il fatto che non si possa vedere nella sua immagine riprodotta significa che non esiste più. Sentiamo cosa ne pensa Franco. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo per avevo anticipato il mio intervento perché sempre per il discorso dell'invecchiamento, mio padre ancora negli anni 90 aveva praticamente inventato un meccanismo, un procedimento per invecchiare il jeans di 3-4 anni. Praticamente io era una cosa che trovavo assurda, ma i jeans nuovi venivano invecchiati usando un procedimento di lavanderia con dei sassi particolari. E si con la pietra pubblica, ma l'ho citato poco fa, si trova nelle tasche dei pantaloni fatti in questo trattamento dei pezzettini di pietra pubblica, cioè vengono lavati con i sassi e c'è quel bel senso di usato. Ecco, e io non vorrei dire una cavolata perché sono passati tanti anni, ma mio padre quella cosa lì l'aveva inventata praticamente negli anni 80. Quindi lei è figlio dell'inventore del stonewashed, del lavaggio, con i sassi. Beh, esatto, ci fa piacere. Noi siamo quasi sicuri di questo, ovviamente la certezza matematica è difficile da avere perché sono cose delicate. Ovviamente non c'è nessun brevetto, sia ben chiaro. Però comunque lui ha messo nella lavatrice le pietre pomice per fare i jeans, esatto, scoloriti. Lei pensi che la mia generazione in realtà quando comprava i jeans nuovi, perché sembravano molto disdicevole andare con i jeans nuovi di pacca, anche se ce n'erano due marche, non è che ce n'erano tanti, si prendeva la carta vetrata e si dava sotto di carta vetrata per farli un po' più antichizzati, diciamo. Noi li abbiamo fatto perché a quei tempi lavoravamo molto per l'estero, ovviamente per i paesi nordici. Poi ovviamente tutti quanti ci hanno copiati, noi eravamo una piccola fabbrichetta e dopo gli anni 90 abbiamo dovuto chiudere per la concorrenza che c'era anche nei mercati stranieri. Comunque questa cosa qua a me mi è rimasta impressa perché ero bambino e non riuscivo a capire, ma perché, dicevo, papà, andiamo a rovinare dei jeans che sono nuovi per farli sembrare vecchi? E lui che rispondeva? Diceva, è la moda, l'importante è creare una moda, e ci ha creduto, e per diversi anni le cose ci sono andate molto bene. Poi purtroppo, sai, come tutte le mode finiscono, insomma. No, è tutti hanno usato lo stesso principio, poi sono arrivati gli indiani, poi sono arrivati i cinesi. È chiaro. Cinesi. Lo so, i cinesi in questo sono dei maestri. Grazie Franco. Professoressa Patrizia Calefato, ricordo autrice degli intramontabili, mode, persone, oggetti che restano, Meltemi. Ha visto, questo nostro ascoltatore ricorda nell'inconsapevolezza di lui fanciullo che il padre poi aveva avuto un'intuizione, sapeva che i jeans per scalare ancora un'altra generazione avevano bisogno di questa sorta di invecchiamento precoce. Certo, che sembravano appunto, sembravano già vissuti, sembravano già usati, non un oggetto nuovo. Mettersi jeans voleva sicuramente dire rigettare le uniformi borghesi, il taglierino, il giacca e cravatta, no? E dunque diventavano degli oggetti con cui anche si combattevano a battaglia, ma con cui anche si inauguravano delle mode, anche se questo non l'avremmo mai detto, non l'avremmo mai condiviso di essere gli iniziatori di una moda. Anche perché furono anche un detestabile oggetto di vestiario, ricordo, oggi per me sarebbero dei ragazzini, ma quando vedevo questi signori quarantenni, 45enni in giacca e cravatta che mettono sotto terribilmente i jeans con le scarpe nere lucide, mi facevano vomitare, mi sembrava sembrava che facessero questa piccola concessione alla loro rigida etichetta comportamentale per sembrare più giovani, come oggi stingono i capelli o si vanno a ritirare la faccia. Quando l'oggetto di culto è usato in maniera così maldestra, si ritorce contro chi lo usa. Sì, beh, probabilmente volevano anche far colpo sulle ragazzine ventenni, magari. Insomma, non finisce mai questo gioco, appunto. Oggi si vanno a ritirare la faccia o a tingere i capelli, allora erano... Senta, professoressa, a me interessa molto, nel suo libro vedo un capitolo nella ricostruzione artificiale, fittizia, come sempre accade nel luogo parallelo, nella realtà parallela della televisione, di alcuni luoghi che apparterrebbero comunque a circostanze di culto nel nostro ricordo, nella nostra memoria, ma che la televisione ricrea artificialmente. A cosa si riferisce, mi scusi? Lo spazio, le figure, i luoghi, quando parla... Sì, certamente. A proposito di Mina, lei giustamente prima parlava di questa figura che probabilmente, ecco, noi molti dei suoi ammiratori non hanno condiviso questa sua scelta di scomparire a suo tempo dalle scene, però probabilmente a distanza di tempo questo rende il suo personaggio ancora più pieno di aura, no? Perché Mina è il bianco e nero, sono gli spazi e i luoghi che la televisione inaugurava dentro le case, no? Io tra l'altro faccio riferimento a Mina nel periodo che va dal 59 al 72, quindi il periodo degli Studio 1, delle canzonissime dirette da quel grande regista che era Antonello Falqui, quel grande innovatore proprio nel linguaggio televisivo e nel linguaggio proprio dell'estetico, nell'estetica del comune, nell'estetica quotidiana che attraverso la televisione entrava nelle case, entrava... Ma secondo lei, professoressa, allora realmente ci sono delle oggettive circostanze per cui tutto ciò sia diventato culto, o è che a un certo punto la televisione ha smesso di creare immaginario, di proporre immaginario e si è rigirata nel suo repertorio? Ancora oggi, quando viene presentata le nuove reti digitali terrestri, hanno detto sì, però c'è una rete dove c'è tutta la vecchia televisione degli anni 60, 70, 80. Come è una sorta di mancanza di immaginario, mancanza di possibilità di creare nuovi oggetti di culto che lascia congelare per sempre queste circostanze nell'Olimpo degli oggetti di culto. Probabilmente questa mancanza, sì, questo è un problema che più volte mi stanno chiedendo gli studenti quando appunto discutiamo un po' di questo libro, di questa mia ricerca. Siamo a corto di immaginario, siamo a corto di creatività, per questo abbiamo bisogno degli intramontabili. Non lo so, io in genere sono ottimista, nel senso che non vedo mai tutto nero, tutto vuoto il bicchiere. Probabilmente l'intramontabilità fa anche parte del bisogno di un recupero di una storia, sia pure di una storia recente, delle ragioni di un presente che ci è dato come ci è dato. Nel libro, per esempio, dedico un capitolo al cinema italiano degli anni 60 e lì ritrovo le ragioni di tante questioni che oggi nella nostra società, nei nostri costumi, nei nostri stili di vita, nei nostri problemi, nelle nostre vergogne anche, si ritrovano e vedo la grande attualità di quel linguaggio. Beh, c'era una lucidità che poi si è persa nel manierismo, nella mancanza proprio di arte, di mestiere e di ispirazione poetica in quei film. Lei pensi che noi andiamo più oltre? Siamo arrivati a celebrare i terrificanti B-movie degli anni 70-80 che pur nella loro scelleratezza di stile avevano delle intuizioni, delle letture della loro contemporaneità che oggi non sono più possibili. Sì, certamente guardare alle ipocrisie di quel tempo, di quegli anni e farli emergere proprio attraverso però una lettura non manichea, ecco, è difficile oggi, perché oggi o è tutto glorificato oppure è tutto... Dunque io mi sto... o è tutto totalmente demonizzato. Certo. Oggi mi sto rendendo conto però in realtà di tutti gli oggetti di culto che abbiamo lambito, uno rimane infisso, mi sembra che sia l'oggetto di culto per eccellenza, almeno nell'emotività degli ascoltatori che questa mattina riescono ad ascoltarci fra nebbie, bufere, treni bloccati e strade infestate dal ghiaccio. Luciano. Sì, sono in linea? Sì, certo. Se no, non mi sentirebbe. Volevo portare allora la mia esperienza di quando ero ragazzo con i jeans, che i jeans erano completamente azzurri e erano tosti, erano diciamo incollati. Noi andavamo al mare, ci tuffavamo nell'acqua e giocavamo con i jeans sulla sabbia, giocavamo. Beh, al tempo di arrivare a sera i jeans, oltre che erano scoloriti, erano anche morbidi. Ma sto parlando del 1966, 68, 70. Sì, era la prima generazione di jeans, che in effetti erano un po' duretti. Erano duri e incollati. Per scollarli, perché insomma erano pure brutti, azzurri, noi andavamo al mare, ci tuffavamo nell'acqua a Fiumicino, giocavamo a pallone, giocavamo con i jeans addosso e il giorno dopo erano scoloriti e morbidi. Ecco, questa è la mia esperienza sui jeans. Grazie, sentiamo Cinzia, visto che i jeans questa mattina vi affascinano in maniera particolare. Cinzia, buongiorno. Sì, buongiorno. Il suo rapporto con l'intramontabile jeans, visto che è questo di cui vi piace parlare. Io mi ricordo che avevo 14-15 anni, facevo, ce li ho ancora, facevo la prima ragioneria e avevo una zia che lavorava alla Nato di Vicenza e mi aveva portato un paio di Levi's che erano tre taglie più grandi di me. E io li ho adattati alla mia misura, li ho stretti di qua, stretti di là, e insomma sembrava che avessi oro colato addosso, perché tutti ogni volta che andavo a scuola con questi jeans mi dicevano: Madonna, ma dove li hai presi? Madonna, ed erano, le dico Gianluca, che erano duri, così tanto duri, che grattavano da tutte le parti da quanto erano grossi, hai capito? Diciamo, erano anche anni in cui non c'era questo culto della fibra naturale, molte volte il sintetico abbondava in questi capi di vestiario, non ci faceva molto caso, allora anzi il magico prodotto sintetico veniva pubblicizzato come il segno più tangibile della modernità, viva la plastica e abbasso il cotone, era un pochino il verbo di quegli anni, poi abbiamo cambiato completamente idea e ciò che entra come merce di culto deve essere innanzitutto dotato le caratteristiche di naturalità, di bontà, di genuinità, ma ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Melog 2.0. La settimana enigmistica. Alzi la mano chi tra noi non ha pensato almeno una volta nella vita, per arrotondare la magra mancia del settimanale, di guadagnare 5.000 lire spedendo una barzelletta, rigorosamente inedita, alla rubrica Risate a denti stretti della settimana enigmistica. I suoi schemi di parole crociate hanno impegnato e impegnano generazioni di italiani. Gli intraprendenti affrontano con scioltezza il mitico Bartezzaghi. I più giovani si limitano a unire con una linea i punti della pista cifrata. Una dose quotidiana di cultura spicciola è assicurata da rubriche come Spigolature, Non tutti sanno che e L'Edipeo enciclopedico. Così, la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione da quasi 70 anni è presenza fissa nelle case degli italiani, stretta nelle mani di chi si appresta a un viaggio in treno o sporca di sabbia e olio abbronzante tra gli ombrelloni della riviera. Ecco, chissà perché, se parliamo di intramontabili, poi ci lasciamo prendere da questa sorta di mania del Tristanzuolo, dello Squallido, della settimana enigmistica, da sempre dei ricordi di mestizia familiare, mai di uscita dal mondo, mai di profumo di fuga, mai di trasgressione. Quando in realtà il libro Gli Intramontabili di Patrizia Califato, di cui stiamo parlando questa mattina, ne ha qualcuno di questi oggetti malandrini o di questi simboli malandrini. Professoressa, se le parlo di unghie affilate, che è qualcosa di molto usato oggi anche nelle accezioni più moderne e nelle declinazioni più legate alle fiction televisive, cioè del manicure stratificato, bicolore, tricolore o squadrellato, che trovo molto burino. Ma l'unghia affilata può essere messa a pieno diritto tra gli oggetti di culto? Ma insomma, c'è un oggetto un po' diabolico, no? C'è una dimensione diabolica che attraversa gli oggetti, insomma, le immagini dell'intramontabilità, no? Questo appunto qualcosa che non si riesce a contenere, no? in un ricordo tranquillo oppure in una vita presente tranquilla. E tra questi io inserisco un po' anche gli oggetti, le unghie affilate, di cui precorritrice negli ultimi decenni fu Florence Griffith negli anni '80. 1960, quella campionessa olimpica che correva esibendo le sue unghie lunghissime, laccate, e i colori erano accordati alle tutine che lei stessa disegnava. E oggi le unghie affilate sono sulle mani, anche diciamo sono quelle posticce, se è possibile realizzarle con una manicure posticcia. Cioè, oggi diciamo che le unghie di vetroresina hanno reso questo accessorio non più pregno di sacrifici, di attese, soprattutto di un'attività fisica inesistente. La mano con l'unghia affilata era una mano dedita soltanto al piacere e alla lussura, non poteva lavare piatti e non poteva spazzare pavimenti. Certo che no, per questo diciamo è l'unghia della donna un po' maliarda, no? La dark lady del cinema classico hollywoodiano, e però potersi mettere appunto posticce probabilmente rende accessibile questa diabolicità a chiunque. Quindi però diventa, ecco, come diceva lei all'inizio, la merce di culto, cioè l'intramontabile diventa merce di culto, è accessibile a tutti, chiunque può attaccarsi le unghie di vetroresina, che tanto non si rompono, non si spezzano e si ripittano facilmente, chiunque può essere maliarda anche se in realtà non ne ha il comportamento, lo stile di vita, la frequentazione costante, ma nemmeno lo stile. Certamente, certamente, è un po' come un grande, come dire, come un grande deposito di immagini, di oggetti, ecco, un po' come tutti i filmati che noi possiamo ritrovare su YouTube, in cui anche spezzoni di vecchi film, di vecchie trasmissioni televisive, a parte i diritti che possano esserci sopra, possono essere disponibili, sono a disposizione e possiamo dunque farci anche una cultura del passato, raccontarci o farci raccontare dei pezzi di storia, però in questo caso mettendoci addosso questi pezzi di storia, non semplicemente limitandoci all'immagine di essi, ma anche mettendoceli addosso. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Pronto, buongiorno. Il suo intervento è in perfetta sintonia con quello che stiamo dicendo noi. Ma sì, io mi chiedevo, cioè mi riallacciavo al discorso dei programmi televisivi del passato, perché in generale, diciamo, secondo me, io non sono per niente esperto né di vintage né di psicologia o semiologia, tant'è che ho 27 anni, quindi il mio vintage è un po' ristretto. Ecco, qual è per lei, qual è, cosa può essere considerato nei suoi negli oggetti che lei frequenta, nei miti che lei frequenta, vintage? Beh, al di là vabbè, dei programmi televisivi, ma secondo me ci può essere anche, ho notato perlomeno... Non so, guardare i telefilm di Fonzi e di Happy Days in televisione? Sì, sì, assolutamente, sì, c'è un classico. Beh, io poi sono appassionato di fantascienza, quindi mi trasullo anche con vecchi film e vedere com'era, ad esempio, il futuro visto dal passato, ma... Secondo me il richiamo del passato è in generale perché c'è la sicurezza che ci è già piaciuto, perlomeno sia nei programmi TV che per l'altro, non è che è mancanza di novità, è che nel fornire al pubblico uno spettacolo, un programma, un film, qualcosa, c'è diciamo la sicurezza dell'ascoltatore del passato, ecco. Ma lei non trova, Francesco, visto che lei è molto giovane e mi corrobora con il suo giudizio, ma lo dico sinceramente, non per arruffianarmi con il pubblico, non trova che il televisore stesso, l'oggetto televisore, appartenga ormai a un passato, sia un oggetto di culto perché ormai è antico, sarà cambiato nella sua conformazione, 16 noni, ai LED luminosi, è retroilluminato, ma è sempre quella scatola che sta in un posto che si accende e fa vedere della roba morta dentro. Per me è assolutamente del passato. Io in realtà ho smesso di guardare la TV proprio come oggetto televisivo già da un po', oramai quello che vedo lo trovo su internet, lo scarico, lo noleggio, quel che è, per cui per me la televisione effettivamente è già vintage. Quindi noi ancora siamo affezionati al televisore, Patrizia Calefato, in quanto appartiene ormai a una nostra memoria familiare di intrattenimento, ma in realtà appartiene già a un passato, non ha nulla di contemporaneo. Sì, beh, lo dice diciamo la persona più giovane, probabilmente è vero, molto non si guarda più la televisione nel senso appunto in cui ci si raccoglie intorno al focolare il sabato sera e si vede appunto Studio 1 di Mina, ma anche le cose più recenti, diciamo anche le cose degli anni 90, no? Io penso e quando però... ci saremo estinti noi come generazione, nessuno sarà molto più interessato a guardare Studio 1 di Mina. Beh, questo non lo so. non possiamo saperlo perché poi, per esempio, noi invece i film degli anni 30 li vediamo, no? Sì, però sì, sono sempre scelte molto legate a una generazione. Come vede, il nostro ascoltatore più giovane è affascinato dalla fantascienza di Forbidden Planet, di questi primi film, in quanto ci dà dei germi di quello che oggi è il mondo che sta vivendo. Ma io la vorrei provocare su un altro oggetto di culto, e non mi si dia una ossessione. Lei cita il Collant. Il Collant, quando nacque, sembrava una straordinaria scoperta che liberava le donne in una sorta di yogi, ma in realtà il Collant ha determinato il riemergere di un'altra merce di culto, che sono gli accessori dell'intimo femminile, che anche oggi sono commercializzati, si trovano ovunque. Oggi nel più tranquillo grande magazzino esiste la biancheria, che una volta si vendeva soltanto nei porno shop. Ecco, questo percorso lei come se lo spiega? Ma intanto probabilmente con la trasformazione anche, no, di la moltiplicazione delle immagini femminili o del femminile a disposizione, no? A disposizione sia delle donne, diciamo, come modello di vita, come stile, sia degli uomini come oggetto, no? Anche di voyeurismo o di desiderio. Beh, il Collant sigillava la femminilità, trasformava la donna dall'ombelico alla punta dei piedi in una sorta di manichino impenetrabile. Certamente, ma era assolutamente la cosa migliore che si potesse indossare sotto la minigonna, ed essendo la minigonna un indumento di libertà femminile, perlomeno per come nasce a suo tempo, poi diventa un indumento invece di seduzione o altro, ma nasce come indumento di libertà, quindi strettamente connesso è il Collant, che lascia la possibilità di far percorrere alle gambe delle donne le strade del mondo, diciamo, per usare una metafora o anche un po' non solo metafora. Però si rende conto lei, professoressa, che uno strumento, un oggetto di culto come la minigonna, che indubbiamente è un oggetto di culto, tuttora lo è, viene riproposta attraverso le epoche in maniera diversa, con stile diverso, ma è un oggetto di culto, ha un significato storico, è apparentemente un oggetto di liberazione, ma in realtà ne implica un secondo oggetto che assomiglia a una cintura di castità, a una sorta di chador inguinale. Non esiste altra soluzione. Se uno vuole mettere l'apparente liberazione, quindi soltanto per il piacere dell'occhio, deve però sigillare in realtà ciò che potrebbe rappresentare qualcosa che va oltre la volontà di esporre. Certo, non meno dei pantaloni, che comunque sigillano, però diciamo sono comodi. Del resto, insomma, le donne sono passate dalle crinoline e dai corsetti ai fuseau, ai collant, alle parigine, alle gambe nude sotto a 10 sotto zero, pur di esibire i sandali coi tacchi a spillo, no? Anche questo c'è nelle costrizioni del corpo femminile. Ma nulla che però attraversi la storia di questi ultimi 50 anni come oggetto di vero culto. Sono sempre delle riscritture, dei palliativi, delle novità che hanno una loro parabola. E beh, invece in questo caso il Collant diventa un intramontabile malgrado tutte le invettive che possono essergli state lanciate contro da sguardi maschili troppo castigati. E oggi per paradosso ridiventa una sorta di fantasma feticistico, ci sono interi siti di adoratori del Collant, che per paradosso, visto che tutti si mettono reggicalze, giarrettiere e orpelli vari, ripensano dietro questa sigillazione radicale e sintetica del corpo femminile si nasconda chissà quale paradiso impenetrabile. La ringrazio, professoressa Calefato, ringrazio Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.